Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Al microfono Antonio Cagliazza. Tutte le province del Friuli Venezia Giulia scalano posizioni nella classifica della qualità della vita realizzata dal quotidiano economico Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma. Quella più in alto è Pordenone, che è nona, seguono Trieste 14esima, Udine 18esima e Gorizia 26esima. Sono in buona forma le province del Friuli Venezia Giulia se si guarda la classifica della qualità della vita stilata dal quotidiano Italia Oggi con Ital Communications. Tutti i quattro territori risultano nel primo gruppo, con qualità della vita giudicata buona. In vetta la graduatoria Milano, seguita da Bolzano e Monza Brianza. Pordenone nona, Trieste 14esima, Udine 18esima, Gorizia 26esima. Tutte in posizione migliore rispetto allo scorso anno, un cambiamento dovuto anche alla modifica di alcuni criteri. Balzano in avanti di un posto Pordenone e Udine, mentre salgono di ben 16 gradini Trieste e Gorizia. Il grande salto in alto di Trieste è legato a due aspetti. Da una parte il netto miglioramento di una delle nove dimensioni dell'analisi, quella relativa ad affari e lavoro, dall'altra l'inserimento di una nuova categoria, turismo e cultura, dove Trieste è terza in Italia. Gorizia sale nella dimensione dell'ambiente, in cui sono stati introdotti nuovi parametri e ben figura su turismo e cultura e sulla sicurezza sociale, dove pure sono stati modificati i criteri. Su sicurezza sociale, su reati e sicurezza è nelle prime posizioni Pordenone, che mantiene una buona media su tutte le nove dimensioni. Udine ha come punto d'eccellenza l'aspetto istruzione e formazione, categoria in cui va forte anche Trieste. Di tutti gli ambiti della classifica d'Italia Oggi, in generale, il Friuli Venezia Giulia fa peggio sulla parte della popolazione. Pesano alcuni parametri legati alla demografia. I risultati peggiori arrivano dal sistema salute, dove però le uniche determinanti prese in esame riguardano gli ospedali e le loro attrezzature. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Pordenone, dove è in corso la fiera del radio amatore, che in realtà è molto più di una fiera e ha molto da offrire non solo ai radioamatori. 9 padiglioni, 250 espositori e 15.000 ingressi sono nella giornata di sabato per le manifestazioni concomitanti Radio Amatore, Games & Co. e Fotomercato alla Fiera di Pordenone. Appassionati ed esperti di elettronica e informatica si affiancano agli amanti del gioco, del fumetto e del cosplay. Pietro Cogo è presidente dell'Associazione Italiana Radio Amatori, sezione di Pordenone. Che cosa significa essere radio amatore? È una passione. Quella di fare collegamenti radio con gente in giro per il mondo. Noi siamo qui per Radio Amatore, dove troviamo tante robe di elettronica, computeristica, spazi in vari campi, c'è addirittura roba di meccanica, si trova di tutto praticamente, è una bella fiera. Antonio Verdichizzi per Pordenone Fiere. La grande novità è l'apertura di un nuovo padiglione, quindi Games & Co. supera i 15.000 metri quadrati per un complessivo di oltre 25.000 metri quadrati lungo tutti i 9 padiglioni di Pordenone Fiere. Piacciono tanto i giochi, i giochi attraggono tantissime generazioni, racchiudono praticamente i papà, i figli e anche i nonni, quindi è bello vedere questo scambio generazionale. Papà con il figlio, giocate insieme? Sì, è la prima volta che veniamo però. Questi erano i giochi tuoi? Precisamente, quelli che si giocavano una volta. Adesso lo insegni anche al piccolo? Proviamo, se gli piacciono. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spettatori incantati da Roberto Bolle ieri sera al Giovanni da Udine, oggi replica pomeridiana alle 16 della più recente versione del suo Bolle and Friends, arricchito di nuovi ospiti e nuove coreografie, a cominciare dal passo a due maschile del Chiaro di Luna di Debussy. Ce lo descrive lo stesso Roberto Bolle, sentiamo. Coreografia che interpretiamo e portiamo sul palcoscenico per la prima volta, un duetto maschile Moonlight, ed è un brano intimista molto bello con una coreografia contemporanea. Nello spettacolo c'è contemporaneo e c'è balletto classico, il repertorio è forse più facile fruizione, il contemporaneo consente a voi artisti di dare molto di più. Io cerco sempre di avere un equilibrio tra il classico e il contemporaneo nei miei spettacoli, proprio per riuscire ad arrivare a un pubblico vastissimo. Chiaramente il classico, il tutù, è molto bello, è molto facile anche per il pubblico ed è rappresentativo della danza classica, però c'è anche un contemporaneo che, quando è fatto bene, riesce a toccare delle corde diverse. La danza con i contemporanei ha avuto una bella accelerata, stiamo andando ancora oltre. Dove saremo fra 50 anni con la danza classica? La danza classica è il balletto dell'Ottocento, quindi quello puramente classico rimarrà sempre, sarà sempre qualche cosa di prezioso, di bello, di esteticamente unico, però chiaramente il contemporaneo incombe. Questo perché il contemporaneo rispecchia molto di più la sensibilità, la società, il mondo in cui siamo oggi. Udine, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Situazione meteorologica, cielo in prevalenza sereno ed ecco le temperature alle 11. A Trieste 11 gradi e mezzo, a Udine 10, a Gorizia 9, a Pordenone 8 e mezzo. Forni di Sopra 7 gradi e 5, Tolmezzo e Piancavallo 6 e 5, Sappada 5 e 5, Tarvisio 4 e mezzo, Zoncolan 6 gradi e mezzo, Lussari 6 gradi, a Grado 7, a Lignano 5 e mezzo. Previsioni: oggi pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso o variabile sulla zona montana, cielo nuvoloso sulla fascia orientale e sulla costa. Lo sport: il calcio ferma la Serie A per gli impegni della nazionale che alle 20:45 gioca contro la Francia. In Serie C oggi allo Stadio Turina di Salola Triestina affronta il Feralpi, calcio d'inizio alle 17:30. Pallavolo femminile: in A1 la CDA Talmasson si incontra a Vero Volley Milano al Palazzetto dello Sport di Latisana alle 18, partita in diretta su Rai Sport, occhi puntati su una delle star nazionali del volley, Paola Egonu. A caccia dell'impresa, ma soprattutto di una prestazione che dia fiducia, la CDA Talmassons, neopromossa, ospita la Tisana la Vero Volley Milano, squadra infarcita di campionesse Alessia Orro e Paola Egonu, ma anche Miriam Silla e Anna Danesi, quattro titolari della nazionale che tre mesi fa ha vinto l'oro a Parigi. Leonardo Barbieri, allenatore CDA Talmassons. È l'ossatura della nazionale, bisogna battere sicuramente bene, quella è la cosa che dobbiamo fare, prendere qualche rischio in attacco. E abbiamo anche una palleggiatrice che ha della fantasia, perciò dobbiamo mettere fantasia e tanto coraggio. Martina Ferrara, capitano CDA Talmassons. Per noi giocare contro di loro è uno stimolo. Come la si batte? Come la si batte? Ci si prova, non ci si arrende, semplicemente si prova a dare il meglio, il 100% di quello che si ha, anzi forse anche il 110%. L'imperativo è quindi migliorare il servizio puntando Silla e sperare che Egonu, che la scorsa giornata è rientrata dopo un lungo stop, sia ancora in fase di rodaggio. Al Palasport di Latisana sarà un altro tutto esaurito, come nel match di esordio contro le campionesse d'Europa di Conegliano. Una festa del volley femminile regionale che sarà possibile vedere su Rai Sport a partire dalle 18. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A due volley maschile, la Tinet Prata gioca in casa alle 17:30 contro Emma Villas Siena. Basket: per l'ottava giornata di A1 alle 16:30 il Pala Trieste ospita una sfida tra due delle squadre rivelazione del campionato, la Pallacanestro Trieste incontra la neopromossa Trapani Shark. In A2 ieri sera Gesteco Cividale ha vinto per 86-75 contro Fortitudo Bologna e ha riagganciato la cima della classifica. Sentiamo dunque Stefano Pillastrini, allenatore dei Ducali. Abbiamo un'identità molto forte, altri magari la troveranno col tempo e non saranno così, però ci sono squadre che basta che si presentino e certe partite le vincono. Per noi dobbiamo sempre giocare bene, dobbiamo sempre giocare bene non vuol dire sempre solo essere, come magari siamo stati nel primo quarto, brillanti, è anche essere consistenti, è anche non buttare via niente, è anche non lasciare niente di facile agli avversari, è anche fare tutte quelle cose che fanno le squadre forti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e non ci nascondiamo, siamo ambiziosi, vogliamo esserlo sempre di più, però anche umili, non sono due cose che vanno in contrapposizione. Apu Udine invece gioca in casa al Carnera alle 18 contro Vigevano. Pallanuoto, nella gara di andata dei quarti di finale di Eurocup femminile alla Bruno Bianchi, ieri sera le orchette della Pallanuoto Trieste hanno battuto le ungheresi di Budapest del Keraleti TUE di misura per 14-13. E per la sesta giornata di A1 maschile, sempre alla Bianchi, Trieste ospita AN Brescia capolista a punteggio pieno alle 14.30. Qualche annuncio prima di chiudere: Francisco Tarrega, compositore per chitarra classica al centro del recital della rassegna Corde in Armonia della Chamber Music di Trieste alle 17 al Museo Sartorio, per un concerto affidato alla chitarra solista di Vincenzo Sandro Brancaccio. L'orchestra di Fiati, città di Muggia, onora la memoria dell'agente di polizia Eddie Walter Cosina, che perse la vita nell'attentato al magistrato Borsellino il 19 luglio del 92. Lo fanno con uno spettacolo intitolato Il mio nome è Eddie alle 20.45 al Comunale di Monfalcone. Prima edizione di Grappolo and Friends for CRO, iniziativa per raccogliere fondi da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano, con alcuni fra i più noti vignaioli, ristoratori, artigiani locali, fino alle 17 nell'area dei festeggiamenti del comune di Arba. E compie 37 anni la Onlus Friulana da Matrà, riferimento per i progetti di ricerca educativa e culturale intorno alle giovani generazioni. Alle 17 a Villalta di Fagagna, alla Chase di Cattine, porte aperte ai giovani. Sono le 12:26 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Federico Comar e da Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.